niente deboli se brilla dentro gli occhi tuoi la luce chiara delle stelle, delle lacrime e non sei sicuro se calda di un sole che non c'è.